Sabato 14 maggio ci sarà la presentazione del nuovo singolo delle Birrette. Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Michela. Ciao, buon pomeriggio. Ti chiedo se ti va di parlarci di questo nuovo singolo. Come nasce questo nuovo progetto? Sì, allora, il nuovo singolo è il primo pezzo originale delle Birrette in italiano. Parte musicale l'abbiamo scritta più o meno insieme e invece il testo l'ha scritto principalmente Anna, la cantante. Questo si chiama Marina ed è dedicato a una persona molto cara che insomma ci ha lasciato e ci abbiamo messo un bel po' a scriverlo perché comunque per noi è stata la prima volta con l'italiano e comunque è abbastanza diverso come sonorità e tutto, insomma adattarlo a Rocksteady è stato abbastanza difficile all'inizio. Però insomma adesso penso che siamo soddisfatte del lavoro che è uscito, l'abbiamo registrato come al solito all'Amor Mio Non Muore a Forlì, quindi presa diretta con tutti strumenti analogici e registrazione su nastro ed è il primo singolo anche che viene prodotto da un'etichetta che è l'Aloe Vera di Napoli. Presenterete questo sabato, il 14 maggio, il nuovo singolo in una giornata all'insegna di tanta musica VAG. Come si articolerà la giornata? La giornata inizia alle 15 e va avanti tutto il giorno fino alle 10. Allora dalle 15 iniziano i concerti e ci saranno vari gruppi che suonano e sono i Red House, le Mondine di Mentivoglio e l'Officina Recche e poi vabbè ovviamente ci siamo anche noi. Ci sarà da bere, insomma sarà una bella festa, speriamo che vengano tante persone così insomma si sta in compagnia e poi dopo durante la serata invece ci sono i DJ set. C'è Salvo dei Bologna calibro 7 pollici, Queen e Dada che sono due DJ sempre di, cioè selector sempre di Bologna e Alfredo Concilio che invece è dell'Aloe Vera di Napoli. Perfetto Michela, ti chiedo come ultima domanda se avete dei progetti per il futuro. Sì, allora abbiamo in previsione di far uscire un altro singolo tra qualche tempo e poi ci rimetteremo a scrivere, speriamo che l'anno prossimo, insomma, già quest'estate riprenderemo i live e speriamo insomma che l'anno prossimo sia l'anno buono per ricominciare davvero anche a fare live durante l'inverno, la stagione invernale, insomma ricominciare un po' a fare concerti perché questi due anni sono stati una paralisi un po' per tutti e quindi continueremo come al solito a scrivere pezzi o riarrangiare cover e speriamo di insomma di suonare il più possibile in giro per portarlo in giro. Bene, io ti ringrazio per questa chiacchierata e speriamo di risentirci presto. Ciao Michela. Va benissimo.